Il mio libro è un'autobiografia, quindi è un po' il racconto di quelli che sono stati i miei primi 10 anni di lavoro sul lupo, con un approccio rigoroso dal punto di vista scientifico, però molto narrativo, nel senso che sono proprio io in prima persona che racconto cosa significa dedicare la propria vita allo studio di questo animale e quali siano, diciamo, anche le sfide, no? Le situazioni, le storie, lo stile di vita che si devono affrontare, a cui ci si deve adattare per fare questo mestiere. Quindi un contenuto scientifico importante, però in realtà è molto, molto narrativo il discorso. Quindi è un libro che di fatto sono contenta perché ha avvicinato tantissime persone, migliaia di persone al mondo del lupo, senza doverle forzare a comprendere un linguaggio troppo tecnico, troppo scientifico, ma facendole appassionare proprio attraverso una storia personale, che è poi una storia comune a tante persone con difficoltà, insomma, che poi viviamo tutti, no? Comunque esperienze di vita in cui tanti poi si possono ritrovare in qualche modo.